17. Joseph non vide chi fu a dare il segnale, ma la folla iniziò a scendere lenta verso il fiume. Guy Johnson in testa al gruppo, Daniel Klaus al suo fianco. Joseph rimase discosto e lasciò scorrere la fila per controllare che non mancasse nessuno. 120 persone di pelle bianca, i dipendenti del dipartimento indiano e parte degli Highlander. 90 guerrieri Mohawk, Johannes de Carioga, famiglie con donne e bambini. 30 battelli a pieno carico, armi e attrezzi, barili di polvere, barre di piombo e stampi per pallottole, provviste, sacchi di mais, carne di porco salata, rum. In mezzo alla folla, un gruppo di donne accompagnava Mary Johnson, il ventre prominente, stretta al braccio della sorella Nancy. Le figlie piccole si tenevano alla gonna della madre, come dovessero reggere lo strascico fino all'altare. Esther, la maggiore, camminava due passi indietro. Le serve bianche e africane stringevano le cinghie degli zaini o attendevano in disparte. Guy non aveva voluto lasciare a casa la moglie gravida e le bambine. Le voleva accanto, dove poteva proteggerle. Sir John era venuto a salutare la spedizione. Strinse per primo la mano al cognato. «Buona fortuna! Dio vi guardi e accompagni il vostro cammino!» «E assista voi nel difendere le nostre terre!» rispose Guy. Di fronte a molte case spiccavano bastoni piantati di traverso nel terreno, segno che l'abitazione era vuota e gli spiriti avrebbero punito chi avesse osato avvicinarsi. Davanti all'emporio, Mary Johnson vide aprirsi un capannello di donne. Apparve Molly Brent, la piccola Anne in braccio. L'indiana alzò una mano in segno di saluto. Mary sentì muoversi la creatura che aveva nel grembo. Portò le mani al ventre. Esther vide la scena. Gli occhi di quella donna sulla pancia della madre, il vago gesto con la mano. Si sentì davanti a un castello di carte nell'attimo prima del crollo. Si avvicinò alla mamma e strinse con forza un lembo della sottana. Avrebbe voluto supplicare il padre di fermarsi, di non lasciare che tutto precipitasse, invece rimase zitta. Il corteo sfilò davanti a Molly, che dalla veranda osservava immobile. Quando Joseph salì gli scalini, Peter le comparve accanto. Il ragazzo era equipaggiato per il viaggio, giacca di cuoio, corno e fucile a tracolla. Molly guardò il figlio con rassegnazione, sfiorò il volto giovane, la carezza divenne una presa sul ciuffo di capelli. Peter strinse i denti, Molly lo lasciò e si rivolse a Joseph. «Guidalo con saggezza». Si abbracciarono. Il ragazzo baciò la madre e scese per raggiungere gli altri. Gli occhi brillavano. Filadelfia e gli anni di studio erano niente di fronte all'avventura che lo attendeva. L'ultimo a ricevere il saluto di Molly fu Philippe Lacroix, in coda alla colonna. Ricambiò con un cenno del capo, senza bisogno di parole. Joseph scorse tre figure immobili al margine della discesa. Susanna aveva portato i bambini a salutarlo. Li toccò, uno alla volta, sulla fronte, una sorta di benedizione che li proteggesse dal male del mondo. Isaac aveva gli occhi lucidi, lacrime trattenute a stento, lo sguardo rabbioso. «Voleva venire con te», disse Susanna. «Alcuni portano la famiglia», aggiunse subito. Joseph capì la velata richiesta e indurì i tratti del viso. «A Oquaga sarete al sicuro», accarezzò Cristina, senza riuscire a sorriderle, poi guardò Susanna. «Abbi cura di mia madre». Si voltò e scese verso il greto dove Butler e suo figlio dirigevano l'imbarco. Mano a mano che gli uomini salivano a bordo, i battelli lasciavano la riva. Sull'ultimo rimasero Joseph, Lacroix, i Butler e i fedeli del clan del lupo. Tutti impugnarono pertiche e pagaie e portarono il barcone in mezzo al fiume. La via di Oswego iniziava controcorrente, risalendo il Mohawk, 70 miglia fino a Fort Stanwix, prima grande tappa a metà del tragitto. Joseph osservò la pigra scia del battello e pensò a chi partiva e a chi restava. Il sole bucava le nubi. Ogni elemento del paesaggio era intriso di pioggia. Le membra degli uomini, il legno della lunga casa e dei capanni, i campi di segale e mais, gli orti di fagioli e zucche. Osservò scorrere i castagni sui lenti declivi che portavano alla prima ansa del fiume. Tuie frondose, larici svettanti. Tutto dileguava la vista, dietro le spalle. Il reverendo Stuart diceva che recitare il Padre Nostro chiudeva ogni breccia alle tentazioni del demonio. Nulla di male poteva accadere se la preghiera che insegnò nostro Signore occupava la mente. In caso contrario, si sarebbe affrontata la mala sorte in stato di grazia. Pochi prendevano alla lettera i consigli di Stuart, ma lì sull'acqua le parole del padre affiorarono alle labbra di bianchi e indiani. Joseph chiuse gli occhi, alzò il capo verso il cielo. Raggi di sole lo investirono. Chiese a Dio di proteggere la sua famiglia. Sulle sponde i coloni assistevano all'esodo dei Mohawk di Canajoharie. I bambini salutavano con la mano, gli adulti osservavano compiaciuti. Joseph intuì che, per molti, vederli partire era un sollievo. La flottiglia procedette spinta dalle pertiche e dai remi. Joseph ricordava bene il tragitto. L'aveva affrontato altre volte, insieme a Sir William. Prima per fare la guerra ai francesi. Poi, quando il commissario era andato a firmare la pace tra la corona e il grande capo Pontiac. Dove gli affluenti sabbiosi si riversavano nel Mohawk, secche scogli strozzavano la corrente, formando rapide impetuose. Più volte avrebbero dovuto scaricare i battelli e procedere a terra, trainandoli da riva con spesse gomene. Per aggirare i precipizi rocciosi di Little Falls bisognava caricare in spalla le barche, risalire il bosco di mezzo miglio e ritrovare l'acqua. Joseph non temeva per sé o per i compagni. Molti di loro si erano guadagnati da vivere come barcaioli. Pensava alle donne e ai bambini, che non avevano mai lasciato casa, nemmeno per un giorno. Guy Johnson si volse a cercare la moglie e le figlie. Due battelli più indietro, Mary si teneva salda al bordo del barcone, gli occhi puntati sulle bambine rannicchiate ai suoi piedi. Nancy e le serve l'affiancavano. Guy rivolse un'occhiata a Daniel Klaus, seduto accanto a lui, uno dei pochi a conoscere il vero motivo del viaggio. Portò una mano alla tasca della giubba, dove custodiva la lettera del generale Gage. Una scommessa azzardata. Prima incassare l'ovvia dichiarazione di fedeltà al re da parte dei Sikem e solo a quel punto vincolarli al loro dovere di alleati. Avrebbe esibito l'ordine ricevuto dal più alto rappresentante di Re Giorgio in America e condotto in battaglia i guerrieri delle Sei Nazioni. Si sarebbe dimostrato all'altezza di Sir William. Ascoltò il silenzio, rotto solo dal rumore dei remi e dai richiami di chi governava i battelli. Una cosa era certa. Il fiume dell'esistenza si lasciava il vecchio letto alle spalle, per scorrere in una direzione nuova.